Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. Puntata in cui, come sempre, vi sarà la poco invidiabile classifica, oggi ricca di notizie, tanto per cambiare, però anche di notizie, di qualche notizia positiva. Per il resto, il tema più grosso oggi riguarda, dal punto di vista economico, l'incontro governo-sindacati, dove il governo ha illustrato, come anticipavamo ieri, cosa capiterà, la modulazione del taglio del cuneo fiscale, quindi delle tasse in busta paga da luglio, quindi dopo i 28.000 euro che già sono inclusi, praticamente restano gli 80 euro di Renzi, come avevamo spiegato, qui si sommano 20 euro, mentre per le fasce escluse dagli 80 euro di Renzi, quindi dai 26.000 ai 35.000, entrano circa 80 euro al mese. E oltre 35.000 euro invece fino a 40.000 si va ad azzerare. Riguarderà 16 milioni di lavoratori. La proposta porterà, illustrare ai sindacati, benefici che vanno da un massimo di 1.200 euro l'anno per i redditi più bassi, e quindi tra gli 8.200 e i 28.000 euro, per poi scendere gradualmente fino a un beneficio quasi nullo, cioè 190 euro all'anno per chi guadagna 39.000 euro, zero beneficio per chi guadagna dai 40.000 euro in su. E tra l'altro riguarderà sia i lavoratori che, se ho ben capito, anche l'ipotesi di riduzione, anche i pensionati. Poi sarà ogni mese bonus mensile fino a 100 euro in busta paga. Devo dire che tutti i giudizi dei sindacati, sia Landini che la Furlan, sono positivi. Dicono: dopo anni di aumenti, dopo anni arriva un aumento dei salari, una giornata importante, ha detto Landini. La Furlan, segretario della CISL, ha detto: col taglio del cuneo c'è un primo risultato positivo. Anche Barbagallo, segretario della UIL, siamo partiti con il piede giusto. Ancora, e di questo parleremo nella seconda ora del programma. Poi invece continua la polemica su autostrade, e oggi là, se possibile, è rinfocolata anche il sottosegretario Buffagni, che è intervenuto questa mattina, vice ministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni dei 5 Stelle, che è intervenuto questa mattina ai microfoni Radio 24 con Simone Spezia e Maria Ratella a 24 mattino. La borsa, per quello che riguarda l'andamento della giornata, dell'ultima giornata della settimana, vede Milano crescere dello 0,70, Parigi dell'1%, Francoforte dello 0,60, Londra dello 0,90, Francoforte dello 0,60, l'ho già detto, e Dow Jones, scusatemi, invece invariato. Tra i titoli, Buzzi Unice in più 3, Diasori in più 2,60 come Prismian, Campari più 2,40, Poste più 2 come A2A e Ferrari, Amplifon più 1,90, Recordati più 1,5 come Terna ed Steamicroelectronics, Italgas più 1,30 come Snam, Era ed Enel. Il fronte opposto, FinecoBank meno 0,90%, Mediobanca meno 0,60%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Rapidamente le notizie in breve. La borsa americana è piatta, però faccio notare che in apertura tutti gli indici statunitensi hanno toccato nuovi record storici. Perché è stato fare 0,1% in più al Dow Jones, 0,3% in più al Nasdaq, e lo 0,20% in più per avere nuovi record su tutti e tre gli indici. Un dato americano oggi importante è la fiducia dei consumatori, che cala, il dato è sotto le attese degli analisti, ma si mantiene su livelli elevati. È l'indice del Michigan, si chiama così, è calato in gennaio da 99,3 a 99,1, ma è un livello ancora molto molto alto quanto fiducia dei consumatori. Spostiamoci alla scusatemi, alla Cina, dove il dato sulla crescita economica dell'anno scorso, 2019, è del 6,1%, che può sembrare tantissimo per noi, abituati allo 0,6, all'1 se va bene, 1,2 se va benissimo, però per la Cina è il dato più basso dal 1990. Io ricordo, adesso le cose sono un po' cambiate, quando si diceva fino a qualche anno fa che in Cina una crescita sotto il 7,5% non avrebbe garantito il passaggio dei milioni di contadini cinesi verso l'urbanizzazione, quindi era il limite, la linea del Piave era il 7,5%, l'anno scorso sono cresciuti del 6%. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto sapere, attraverso l'ambasciatore europeo a Pechino Nicolas Chapuis, che impugnerà l'accordo commerciale Cina-Stati Uniti davanti alla WTO, davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, se esso creerà distorsioni nel mercato tali da danneggiare le società europee. Veniamo all'Italia. Lo spread è a 161 punti. La Banca d'Italia conferma le stime già date a dicembre quanto a crescita economica italiana, lo 0,5% e lo 0,9% nel 2021. Questo per una maggiore debolezza del quadro internazionale, però dice che sosterrà l'attività economica, la domanda interna e una progressiva ripresa degli scambi internazionali. Però la Banca d'Italia stima un quarto trimestre dell'anno scorso, e quindi gli ultimi tre mesi dell'anno scorso, invariato quanto a PIL, con il rischio appunto che venga fatta una revisione. Il governo stima uno 0,6 per quest'anno, Banca d'Italia 0,5, Standard & Poor's 0,4, insomma, mi sembra che siamo sempre al gioco dei decimali. Invece l'Istat ha confermato che l'inflazione a dicembre è andata allo 0,5%, portando l'inflazione in tutto il 2019 allo 0,6%, che è un livello che è la metà del 2018. Ora, come diciamo sempre, questa è una buona notizia per chi ha reddito fisso, pensionati piuttosto che lavoratori con reddito in busta paga, perché l'inflazione quando è alta erode i salari, nel senso che nessuno riesce a fare poi avere degli aumenti o rinegoziare il proprio salario per stare dietro l'inflazione, quindi vai a perdere il potere d'acquisto reale. E quindi è una buona notizia per tutti quelli che hanno reddito fisso e non sono stati in grado, a maggior ragione se hai anche rinegoziato il tuo salario, ma anche se non sei riuscito a rinegoziare il salario. Non è una buona notizia complessivamente per il paese, perché un'inflazione che nel 2018 era l'1,2% ed è allo 0,6% nel 2019 vuol dire che non c'è nessuna tensione sui prezzi al consumo, vuol dire quindi che la tanto auspicata inflazione vicino al 2% che vorrebbe la BCE in Italia non solo è di là da venire, ma si sta anche andando indietro. L'inflazione può essere cosa buona intorno al 2% quando denota una vitalità economica, la gente spende un po' di più, consuma un po' di più, i prezzi salgono leggermente. Così non è. Dunque, il prezzo del calo della spesa anche lì ha fatto 0,6%, identico all'inflazione generale, e anche qui dimezzato rispetto al 2018. Il calo della spesa è quello dei beni a maggior frequenza d'utilizzo. All'ascoltatore che mi scrive, mi raccomando, racconta tante bugie perché sennò non ti invitano al Bilderberg. Ma lei sa che cos'è il Bilderberg? Ma sa che non ci sono mai stato? Ma soprattutto, ma perché con tutto quello che può fare uno a quest'ora del giorno si mette a scrivere ste cavolate? Non lo so, ci sono tante altre attività che uno può fare. Allora, andiamo avanti. Il Bilderberg. Commercio estero, l'export a novembre è il dato peggiore dal 2011, meno 4%, cioè su ottobre comunque meno 3,2% su base annua. Ripeto, è il ribasso mensile più forte dal 2011, e l'importazione hanno fatto meno 6%, quindi si mantiene un avanzo commerciale, esportiamo più di quanto non importiamo, ma solo perché le importazioni hanno rallentato più delle esportazioni, a dimostrazione che c'è stato un rallentamento di tutta l'attività del commercio mondiale, sia nel nostro export che nel nostro import. La bilancia commerciale comunque nei primi 11 mesi va a 48 miliardi, che comunque sarebbe un avanzo record, perché è il dato più alto mai registrato dal 1991 e quindi da quando esistono le serie storiche. Del taglio al cuneo fiscale che partirà da luglio parleremo più avanti. Vorrei chiudere con Autostrade per l'Italia. Oggi è intervenuto, dicevo, a Radio 24 Mattino Stefano Buffagni e ha commentato l'intervista che oggi era sulla Repubblica, se non ricordo male, al numero uno di Autostrade per l'Italia. Ha detto Buffagni: sono ancora più arrabbiato ogni volta che leggo queste interviste ai manager o agli azionisti di Atlantia, perché il governo non si fa ricattare, fa schifo questo modo di porsi. Stiamo parlando di atti dovuti, la vera domanda è cosa avete fatto fino ad oggi. Dopodiché l'azionista di riferimento di Atlantia ha fallito. E poi ha continuato Buffagni, vice ministro dello sviluppo economico: non siamo dei pazzi sul futuro di Autostrade, non posso fare anticipazioni perché parliamo di un nemico dotato di molte risorse. Cioè, noi questa soluzione, queste ipotesi di scenario le abbiamo fatte, abbiamo una serie di ipotesi, e quindi questo voglio che sia chiaro, perché non siamo così dei pazzi da analizzare un percorso e non considerando tutti i passi successivi. Quello che le posso, quindi di certo non lo anticiperò oggi, perché stiamo parlando di un nemico molto più diciamo dotato di risorse di noi, che paga consulenti, fa denunce ogni 2 secondi, è un'azienda quotata, quindi io non voglio dare pretesti o scuse per cercare di depotenziare la nostra azione. E poi ancora sempre Buffagni dice: Autostrade si sente intoccabile. Non più tardi di ieri, mi pare di aver letto che la procura di Genova abbia denunciato, lamentato pressioni che hanno subito i loro periti indipendenti da avvocati di controparte. Io ho visto il film Gli Intoccabili con Al Capone, che prova a fare, cioè, lei capisce che è una roba pazzesca. Un paese non è normale quando ci troviamo in questa condizione. Cioè, mi scusi, Autostrade le ricorda la mafia di Al Capone? No, ma non è, non ho detto questo, non mi metta in bocca cose che non ho detto, perché poi domani c'è il titolo. L'ha citato, gli intoccabili l'ha citato, no, lei. Io insomma, gli ho detto un modello, sì, gli ho detto un modello di gli ho fatto l'abbinamento tra quello che ha denunciato la procura di Genova ieri e un modello che mi pare pazzesco, che dovrebbe indignare tutti. La classifica della settimana. Oh, andiamo alla classifica. Oddio, l'ascoltatore che dice, mi scrive: cambiare canale mentre lei è in onda dà un estremo sollievo. Si sollevi allora, si renda sollevato. Allora, partiamo con la classifica. Oggi è una classifica un po' spuria, perché c'è anche qualche buona notizia. Voglio partire dalla buona notizia, così poi magari funge da dolcificante. Ricorderete la vicenda di Marco Scappato, il ragazzo affetto da tetraparesi spastica, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, perché nonostante lo avesse premiato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Comune ha tagliato i rimborsi, la famiglia non riusciva a sostenere l'altra metà della spesa e non riusciva ad andare a scuola con il pullman. Allora lì c'è stata un po' di confusione, perché la scuola è il liceo a Corsico, su cui non ritiro nulla di quello che ho detto quanto a Grande Capitale assieme a Buccinasco e altri comuni dell'Interland delle infiltrazioni mafiose dell'Andrangheta, però la responsabilità è del Comune di Milano, perché la navetta lui la prende da via Gonin, che se non è cambiato qualcosa ancora Milano. Allora qual è la buona notizia? A parte, poi dici che la classifica non serve, sarà servita forse anche la nostra classifica. Io personalmente ho ricevuto sul telefonino 10 richieste da imprenditori, alcuni dei quali sono anche venuti ospiti per il ruolo che rivestono in questo programma, di poter contribuire in maniera diretta. C'è stato comunque un angelo invisibile che ha offerto un bonifico che ha coperto ogni spesa, 3.500 euro, quindi Marco Scappato, e la buona notizia è questa, grazie anche all'interessamento del Corriere della Sera che per primo pubblicò la notizia, penso in parte anche, l'abbiamo messo in classifica noi, forse qualcosa è servito a giudicare dai messaggi che ho ricevuto, devo dire incredibile la generosità per quello che abbiamo visto, non solo i messaggi che ho ricevuto io, anche tutto quello che è arrivato su WhatsApp, di persone che hanno fatto a gara per poter pagare il pulmino, va tutto bene, tra l'altro Marcos Alexandre Cappato ha incontrato a Palazzo Marino, a Milano, nella sede del Comune, l'assessore alle politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, che ha proposto di stanziare nuove risorse per la disabilità che si andranno ad aggiungere a quelle che verranno confermate con il bilancio 2021. La proposta è quella di istituire un fondo aperto in cui ogni disabile potrà decidere come spendere le risorse di cui ha diritto presentando un progetto al comune. Marco Scappato ha poi parlato con i cronisti, ha detto: io ho ripreso da andare a scuola e ci tengo a dire che grazie alle donazioni che mi sono state fatte da persone che hanno letto le interviste, visto gli articoli, hanno voluto aiutarmi. Non c'è stato un intervento da parte di chi secondo me doveva occuparsene. Ora io voglio dire una cosa, massimo rispetto, benissimo che la vicenda è stata così, vedete che ogni tanto la stampa e la mobilitazione di stampa serve anche in positivo, però ora che ho chiarito anche a me stesso che è il comune di Milano quello che doveva provvedere, abbiate pazienza, ma come cavolo è possibile che nella città più ricca d'Italia si combini un simile casino? Lo dico col massimo rispetto al sindaco Sala, che abbiamo difeso quando ci fu quella dichiarazione del ministro, adesso vado a riprendermi anche, era Provenzano forse, su Milano che scippa, tutte cavolate imparate dal modello Milano. Però se Milano deve essere un modello, sindaco, due cose: A, si deve confrontare non con Roma, troppo facile vincere in questo modo, ma con Amsterdam, Barcellona, Monaco di Baviera, Vienna e via così, e quindi attenzione a sentirsi troppo fighi solo perché il confronto lo fai con Roma o con Napoli, perché se vuoi giocare in Champions League il confronto lo fai con le altre squadre, non ti vai a confrontare con squadre minori, non che voglio dire, però è chiaro che la situazione di Roma è in estrema difficoltà. Due, ma com'è possibile che si caschi su una simile buccia di banane in una città così ricca? Perché noi abbiamo applaudito al fatto che Milano sia diventata la terza o quarta città turistica d'Italia, tutto quello che è stato fatto, l'urbanistica, il modello Milano, il fatto che tra le varie giunte non si è distrutto tutto e quindi sostanzialmente Pisapia prende il buono fatto della giunta Moratti e poi arriva a Sala e via così. Però attenzione a distravi, perché qualche segnalazione di troppo ci sta arrivando su questo. Lasciate stare la denuncia del presidente della Fondazione Cariplo Guzzetti, ex presidente, che ha detto che a Milano ci sono 20.000 bambini che non hanno da mangiare a sufficienza. Attenzione alle periferie, attenzione ai più deboli. Non è che si può far sempre intervenire l'aiuto dei privati, o meglio, l'aiuto dei privati può intervenire quando in maniera veramente sussidiaria, quando non ce la fa proprio lo Stato o il Comune. Però attenzione, perché dovete allargare la platea dei beneficiari, e se Milano deve essere un modello, deve essere un modello in tutto, perché di Milano da bere, visto che in questi giorni stiamo ricordando Craxi in tutti gli aspetti, delle volte alcuni sono un po' troppo geografici, altri troppo critici, comunque non c'è nessuna nostalgia qui della Milano fighetta da bere, c'è grande desiderio di una città moderna, internazionale, efficiente e anche molto solidale. Quindi tra il flute e, diciamo, il pulmino, meglio il pulmino. Oh, visto che c'è anche la settimana della moda, vediamo che... Allora, andiamo al quarto posto, poi ne abbiamo una anche al secondo, vabbè. Andiamo al quarto posto e restiamo sulla scuola, in questo caso per una vicenda su cui tutti hanno commentato. Guardate, che abbiano fatto una cappella totale all'istituto di Via Trionfale a Roma con quell'annuncio, guardate, la scuola di via Vallombosa, ci studiano i figli delle badanti nell'alta borghesia, e a parte che l'italiano di quell'annuncio l'istituto di via Cortina d'Ampezzo, credo che è a via Cortina d'Ampezzo, accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell'alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie, colf, badanti, autisti e simili. Ora, ma l'italiano e simili? Ma che? Ma che siamo? Cioè, un trattato di zootecnia e simili? Cos'è simile secondo voi a un autista, una badante, una cosa? Chiedo, perché è interessante questo trattato di sociologia così, da quattro soldi. Però la scuola ha chiesto scusa, vabbè, ha capito che ha fatto una... Tra l'altro, colf, badanti e autisti, beh, oddio, potremmo anche fare una disquisizione su cos'è l'alta borghesia per voi, perché l'alta borghesia non è quella che ha l'autista. Vabbè, comunque, detto questo, il problema non è la cappella, lo scivolone palese che ha fatto la scuola. Il problema... E qualcuno mi ha obiettato, io accolgo la critica, ma non facciamo gli ipocriti all'italiana, lo sappiamo tutti che i genitori vanno a valutare queste cose, com'è composta la classe, qual è la presenza di extracomunitari o di madrelingua, ma guardate che questo va, so anch'io che succede, cioè un genitore dovrebbe valutare, diciamo, la qualità della didattica in primis, e una scuola dovrebbe pubblicizzare la qualità della didattica, non la qualità degli alunni, ma che è? L'insegnante è un cane, però gli alunni sono tutti della media alta borghesia e chi se ne frega. No, non è. Però so benissimo che il genitore che deve scegliere la scuola può andare a fare questi ragionamenti. Il problema è che un conto è che li faccia il genitore, un conto è che li faccia la scuola. Non è un dettaglio, non è un problema di ipocrisia, è un po' quello che diciamo dei politici e di alcuni politici in particolare. Cioè, se quel discorso lo senti al bar, è un discorso da bar, ma tu che fai il ministro, facevi il ministro, fai il segretario, non puoi parlare come si parla al bar, perché se non sei al bar, sei in un ruolo istituzionale, hai un messaggio, hai una figura, devi essere un po' meglio del bar, ok? Allora, il problema qui non è il fatto che i genitori vadano a vedere queste cose, ho capito. Il problema è che tu non puoi autorizzare, istituzionalizzare, rendere accettabile questo ragionamento, perché sennò vai a cristallizzare le differenze. Ricordo al direttore e a tutti gli insegnanti che la scuola era ed è ancora il principale ascensore sociale quando funziona bene, cioè permette al figlio, per usare le categorie loro, della COF, della badante, dell'autista e simili, di crescere nella gerarchia sociale, perché è più bravo, come ho visto io molte volte, ho fatto la scuola pubblica e c'erano figli di persone magari in ambienti che prendevano voti molto più alti di chi veniva da quella che loro chiamano l'alta borghesia. Questo si chiama ascensore sociale e permette di non essere ingabbiati, cristallizzati nella famiglia in cui ti è dato vivere, e quindi non cristallizza la società, e poi dà anche un messaggio agli altri, cioè ai figli dell'alta borghesia, che poi a casa mia una volta si chiamavano figli di papà, ma comunque i figli dell'alta borghesia, di dire: vedi, non basta essere figlio dell'alta borghesia per andare avanti, perché lei ti ha superato nei voti, devi anche studiare, è una lezione di vita, è una lezione di incoraggiamento, di speranza per chi è nato più sfortunato rispetto ad altri, ed è una lezione di vita anche per chi è nato più fortunato rispetto ad altri. È molto difficile da capire questo concetto per chi vuole pubblicizzare una scuola? Non è un problema di dire: tanto ragionamento lo si fa già e vuoi che le famiglie non lo facciano? Ho capito, mica le famiglie sono portatrici della verità rivelata. E quindi, per dirla tutta, voglio citare Gramellini, che il 16 gennaio ha scritto una cosa che meglio non riesco a dire sul Corriere della Sera, nel caffè. Il tema sollevato da questo caso riguarda qualcosa di molto più ampio. Riguarda il linguaggio e i valori che lo ispirano. Sappiamo che tanti genitori cercano di sistemare i figli nella scuola più omogenea al loro ambiente sociale, ma non possono essere i dirigenti della scuola pubblica a rammentarglielo per iscritto. La scuola pubblica è nata per consentire l'uguaglianza dei punti di partenza. Un'utopia, forse, però è di questo genere di utopie che si nutre il lessico di una democrazia. Rinunciare non solo a perseguirle, ma ormai persino a nominarle, a qualcuno sembrerà un esercizio di realismo. Temo invece che assomigli a una resa. Vabbè, per dirla tutta, sentiamo Enrico Mario Rusconi è intervenuto ad Effetto Notte al microfono di Roberta Giordano proprio su questa vicenda. risulta che altre scuole negli anni passati, molto poche per fortuna, le scuole italiane sono 8.000, gli edifici sono 42.000, quindi sono molto poche, però abbiano, diciamo, utilizzato questo metodo che io definisco parasociologico, perché che è sbagliato, sia perché quando uno vuole utilizzare delle categorie sociologiche deve avere dei punti di riferimento, cioè delle statistiche, delle indagini. Dire media borghesia, alta borghesia, ceto alto, ceto medio, secondo me veramente sono parole in libertà, insomma, che non hanno, che dimostrano che non c'è stata, che non c'è una vera dimestichezza in chi ha scritto, probabilmente una commissione interna alla scuola, chi ha scritto quelle frasi. Quindi uno degli inviti che noi facciamo alla scuola, agli insegnanti, ai presidi, eccetera, attenzione, mi raccomando, la prima cosa è documentarsi bene. Guardi, lo scuola non è documentarsi bene, anche avessero scoperto quello, il problema è che è proprio il messaggio che è sbagliato. Ok? E non lo puoi dire tu e dare questo messaggio. Devo rileggere Gramellini? A chi mi scrive, vabbè, basta con questo pistolotto, vabbè. E l'altro, lei manderebbe i suoi figli in classe con degli zingari. Eccolo qua il genio. Vede, io ho esattamente spiegato il motivo per cui quello che farei io, che farebbe lei, che farebbero tutti i genitori o alcuni genitori quando parlano tra di loro, quando parlano al bar, quando parlano in salotto, non è qualcosa che la scuola può legittimare. Ma è difficile capire questo concetto? Lo dico a lei che è sempre molto arguto quando mi scrive. È difficile capire questo concetto? Che è diverso il ruolo che ha un istituto scolastico dalla chiacchiera del cavolo che lei fa al bar, zingari, non zingari, no? O mettiamo tutto assieme nel calderone. E che messaggio dai? Che la scuola serve a cristallizzare lì i figli di, là i figli da e via. Sì, ma dai. E poi Rusconi che dice... devono stare più attenti all'indagine sociologica. Ma che indagine sociologica? Devono diciamo, connettere il cervello con quello che è la loro funzione. Comunque, meteo, pubblicità e poi andiamo al terzo, secondo e primo posto. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. 17:41 minuti, vado oltre la scuola, non posso rispondere a tutti i messaggi, per carità, ribadisco, attenzione, un conto è quello che può pensare ogni ascoltatore, alcuni, e ci mancherebbe, sulla scelta che vuole fare lui, altra cosa è quello che può dire una scuola che ha una funzione pubblica ed è più alta, più importante della testa mia e degli ascoltatori, se sai rivestire la tua funzione. Poi potremmo discettare per ore, perché a me che sti geni qua, dov'è che era sta scuola, facciano un'analisi sociologica, manco fossero i piccoli nipotini di Pareto, Marx, Comte, Giddens e quant'altro, ma stiamo qua a capire come si sta rimodulando la società e voi arrivate ancora con le... mancava solo i nobili a cavallo ma dai, su, ti dà anche l'idea, diciamo, di quanti libri pochi hanno letto quelli che hanno scritto quella roba lì, oltre che il resto, oltre che non sapere interpretare il loro ruolo. Andiamo invece, restiamo sulla scuola, perché da un lato io non so se ritenere una buona notizia o una cattiva notizia quello che si è inventato l'Istituto Tecnico di Bari, la nuova preside Giovanna De Giglio. Lo dico perché noi stiamo facendo una battaglia affinché i genitori, visto che fino al 31 di gennaio abbiamo fatto l'inchiesta con scuola.net, è pubblicata sul sito della radio del Sole, Maria Piera Ceci ci ha lavorato per interi giorni, però abbiamo visto, insomma, che ancora c'è una prevalenza dei licei. Non ho niente contro i licei, ho detto solo valutate bene, perché quando vedo che questa prevalenza, soprattutto al sud dove ci sono più problemi di occupazione, e continuiamo a raccontare che mancano all'appello 420.000, ultimo dato, mestieri richiesti, soprattutto quelli che vengono preparati dagli istituti, forse una domanda me la farei. Lo dico perché la preside dell'Istituto Tecnico Euclide Caracciolo di Bari, nel mese delle iscrizioni, per attrarre, ma lo dice chiaramente lei, noi abbiamo cercato di fare un'iniziativa per i nostri studenti che possono scegliere fra gli indirizzi nautico e aeronautico. Io, per quello che conosco il mercato, in questo momento andrei subito in indirizzo nautico e aeronautico con la domanda che c'è in giro. Però, soprattutto al sud, lo dice la preside, le famiglie e gli studenti tendono a privilegiare i licei per un motivo anche lì. Per lo stesso motivo di quelle geni che hanno scritto sulla scuola di Roma, no? Perché fa fico andare al liceo e socialmente ti senti più fico, le mamme, i papà. chi se ne frega se poi tuo figlio non ha nessuna predisposizione o non ha o ha poche possibilità di essere occupato. Eppure posso assicurare che le imprese ci chiedono le liste dei diplomati che possono essere subito inseriti sulle navi da crociera, cioè in una regione come la Puglia, dove il tasso di disoccupazione è altissimo. Non voglio parlare di Emiliano oggi, perché sapete cosa ne penso di Emiliano, non c'entra niente sul tasso di occupazione. Però, anche se sarei comunque sempre tentato di parlare di Emiliano, però dico, in una regione come la Puglia c'è un istituto tecnico, Euclide Caracciolo, che ha i corsi per indirizzo nautico e aeronautico. La preside De Giglio dice: le imprese ci chiedono la lista dei diplomati, quindi vuol dire che tuo figlio, a meno che veramente, ha già un lavoro, ha ottime possibilità di trovare un lavoro. Lei cosa si deve inventare per convincere le famiglie baresi che forse lì c'è una prospettiva del tutto decente? Primo, ogni lavoro è decente. Secondo, di occupazione immediata. Si è inventato un viaggio per due per il futuro studente e l'accompagnatore, partenza da Civitavecchia e destinazione Barcellona, una mini crociera di 4 giorni messa in palio dalla scuola, 2 giorni di navigazione con laboratori didattici, momenti culturali, un paio di prenotamenti gratis a Barcellona. La lotteria è organizzata dall'istituto, che appunto nel mese di iscrizione ha detto: chi si iscrive partecipa alla lotteria. Questo va benissimo, però in un paese normale, con delle famiglie normali, con dei genitori con una testa normale, non dovrebbe essere necessario che la preside si inventi l'estrazione della lotteria della crociera. Dovresti avere delle famiglie che dicono: ah sì, l'istituto Euclide Caracciolo di Bari garantisce un tasso di occupazione così alta, mio figlio è un appassionato di navi, un appassionato di... lì lo iscrivo. E chi se ne frega se quando prendo il tè, il caffè, lo spritz, non posso dire che mio figlio fa il liceo. A me interessa che mi dire che mio figlio è occupato. No, troppa retorica, un altro pistolotto, andiamo avanti. Allora, ero indeciso se mettere al terzo posto la notizia che non ci... Barisoni, vai tu a navigare per 700 euro. Vabbè, è arrivato il genio. Guardi, se l'alternativa è essere disoccupato, forse una nave di crociera mi dà qualche formazione, che ne dice? Beh, certo che se poi perché non aggiunge vai tu a navigare 700 euro meglio il reddito di cittadinanza, ecco, dica tutta la frase, dai. No, dicevo, al terzo posto eravamo un po' indecisi se mettere una notizia che però la devo dire. Allora, il tribunale di Macerata, nell'ambito di un processo penale a carico di 6 napoletani, o meglio, nell'ambito di un processo penale, ha dovuto pagare e chiedere il perito traduttore. Non sto scherzando, l'udienza si terrà il 14 luglio perché con decreto di citazione di perito e l'incarico è stato affidato all'avvocato Andrea Di Buono, originario di Napoli, nel foro di Macerata, perché i giudici più volte hanno chiesto aiuto per le traduzioni di quanto riferiscono in udienza gli imputati e i testimoni, e quindi non parlando l'italiano del tutto, si è chiesta la traduzione dal napoletano all'italiano. Ora, io sapevo di traduttori di paesi anche distanti con i flussi migratori. Poi si è proposto l'avvocato Andrea Di Buono, originario di Napoli, in base a questo è capace di tradurre, ma non è questo il motivo per cui mettiamo al terzo posto, anzi non è questa la notizia del terzo posto, la notizia del terzo posto, ve la do dopo il traffico, eccola qua, e riguarda una regione a noi molto cara, 349-238-6666. Cerco maschio alfa. Affettuoso e intelligente e ricco e passionale e bravo a cucinare e anche a stirare. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio, Panda da 99 euro al mese per i primi 2 anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up, i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645 TAG 939, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Focus Economia. Allora, vabbè, c'è qualcuno che mi dà del razzista, non si capisce una mazza, qualcun altro che veramente proprio oggi non riesce ad avere le connessioni, perché dice: quindi secondo lei dall'Emilia Romagna in giù tutti a lavorare a 14 anni, lei non ha capito veramente nulla di quello che ho detto sugli istituti tecnici e su chi dà lavoro e formazione, ma vabbè, mica possiamo essere... Allora, questo mi fa impazzire, che pensa che sfiga che hanno i tuoi figli, a casa tua non conti un ca... Sì, ho capito, ma non è che frustro, posso contare o non contare, ma non è che sfogo le mie frustrazioni, sono notizie vere. Allora vediamo se questa, come la cataloga lei, questa notizia. Allora, andiamo in Sicilia, dove il presidente della regione Nello Musumeci, con un decreto arrivato l'ultimo giorno dell'anno scorso, uno pensa un decreto d'urgenza, l'ultimo giorno dell'anno, la regione Sicilia con tutti i problemi che ha, che cosa avrà fatto come decreto l'ultimo giorno dell'anno? Ha dato un incarico da 12.000 euro lordi a un docente. E fin qua dici, e dov'è la notizia? Attenzione, il docente si chiama Giuseppe Uccio Barone. Allora, adesso io non voglio ridere, però uno che si chiama Barone cosa poteva fare? Insegnare all'università, la battuta è facile. E come insegnava all'università Barone? Non lo dico io, non lo dice il nomen omen, lo dice lo scandalo che l'ha travolto, Concorsopoli all'università di Catania. Era ordinario di storia contemporanea, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Fra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Catania, per appunto Concorsopoli, suo figlio Antonio Uccio, Antonio Barone, avrebbe ottenuto la carica di diritto amministrativo per effetto di quel sistema, nonostante le perplessità del mondo accademico registrate dalle intercettazioni. Per esempio, l'ex direttore generale dell'università Lucio Maggio diceva, intercettato: non è che il figlio di Barone sia un genio, tutt'altro. E infatti ha preso la cattedra di diritto amministrativo. Allora, per questa storia Barone fu prima sospeso e poi andato in pensione. E tu dici che uno va in pensione, cioè ti ha travolto in uno scandalo. No, perché il presidente, e l'ha firmata lui, della regione Sicilia, Nello Musumeci, come nell'ultimo giorno dell'anno scorso, come decreto d'urgenza, dico d'urgenza no, lo aggiungo io, ha dato un incarico da 12.000 euro lordi a Giuseppe Uccio Barone, nonostante questo suo bel pedigree, per far che cosa? Per studiare i moti europei del 1820, nel corso dei quali la Sicilia ha rivendicato l'indipendenza, l'affermazione dell'autonomia e il ripristino della Costituzione del 1812, e ricavarne un volumetto che la regione Sicilia si riserva di pubblicare. Aggiungo io, come dicono i ragazzi, anche no. Ma stiamo scherzando? Al di là del profilo, ma chi se ne frega? Ma adesso io la storia la adoro, è la mia passione. Manco mi ricordavo dei moti europei del 1820, sì, ma voglio dire, della parte la Sicilia rivendica l'indipendenza, ma non c'è niente di più così leggermente attuale che i moti europei del 1820 sulla rivendicazione di autonomia? Magari fate uno studio sul 2020 e capire come la Sicilia gestisce malissimo la sua autonomia e il buco che ha la regione siciliana. Quello è uno studio più attuale, e visto che lo studio del genere, fatelo gratis, perché manca solo altri 12.000 euro di buco, no? E tutto questo deve essere affidato per forza a Giuseppe Uccio Barone. Mai. Posso chiedere alla Regione Sicilia di comunicarci anche attraverso l'ufficio stampa quando verrà pubblicato il volumetto, che immagino andrà a ruba durante le prossime strenne natalizie? Grazie. Ma è niente questo rispetto al secondo posto. Quanto ho? Un minuto, poi andiamo su. Secondo posto della classifica, e il secondo dov'è? Eccolo qua. Allora, falsi invalidi, veri ladri, torna l'appuntamento della poco invidiabile classifica falsi invalidi, veri ladri. Allora, hanno beccato paralitici e ciechi a ballare, a guidare, a leggere le buste in discoteca. E qui, c'è... A Palermo sta proliferando Lazzaro in giro per Palermo, non ce ne siamo accorti. Mamma mia. Allora, percepivano la pensione di invalidità come paralitici o quasi, mandavano in giro in auto e la sera si scatenavano in discoteca. A quelli a cui era certificata la cecità, i finanzieri hanno beccato una donna mentre leggeva la posta, che dubito fosse in braille, appena ritirata dalla cassa delle lettere. E la cosa bella di questa vicenda, che è nata dalla denuncia di un uomo che voleva vendicarsi della sua ex moglie falsa invalida. Guardate, non è un dettaglio, se andate a vedere la storia di come nasce Tangentopoli e Mani Pulite, scoprirete che molte denunce vengono fatte, me lo ricordo perché mi occupavo di quello in quegli anni, vengono fatte da ex mogli a cui i mariti tangentari passavano un mensile minimo, dicono: ah sì, tu ti intascavi dei tangenti e passi questo, ti denuncio. E la vicenda nasce in maniera analoga, questa volta però è il marito che denuncia l'ex moglie falsa e invalida, e ha fatto i nomi e spiegato le procedure. Sono finiti dentro, oltre a due insospettabili, denunciati a piedi libero, 33 persone, tra cui medici generici e specialisti, componenti delle commissioni dell'ASP, impiegati dell'INPS, responsabili del CAF, ognuno con un ruolo ben preciso, perché la divisione del lavoro lì funzionava bene. C'era il procacciatore di pazienti, l'ha detto ai certificati. Poi i due insospettabili che gestivano tutto si chiamano Antonino Randazzo, pensionato a 56 anni, poi mi dite che in Italia a Palermo, a Terrasini, finito in manette, e anche il suo più stretto collaboratore Filippo Accardo, 49 anni, responsabile di un CAF a Terrasini, che ha i domiciliari. Dopo il GR24 vi spieghiamo perché, e andiamo al primo posto in classifica. 349-238-6666 per SMS WhatsApp. Maestro SD-WAN, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro! Non temere, ecco la tua arma. La fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo. Accessi, cloud, applicazioni, si integra con tutte le tecnologie. ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore. E poi si attiva in un laser, volevo dire in un lampo. Vai su fibraintelligente.it. Fibra intelligente, la soluzione SD-WAN di Iridios, il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga. Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con Nespresso White Days puoi avere la macchina Inissia e 100 capsule di caffè a soli 69 euro fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso. What else? Cerco donna sexy, tenera e divertente e avventurosa e amante del calcio, ma che mi faccia anche un po' da mamma. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi due anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645 TAG 939, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Biennale, grandiosa, completa, è Fiera Agricola 2020. Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio, tutte le innovazioni in agricoltura, zootecnia, viticoltura e agroenergie a Verona per tracciare le linee del futuro. Aree demo macchinari, mostre zootecniche internazionali e la nuova rassegna nazionale avicoltura. Fiera Agricola a Verona Fiere dal 29 gennaio al 1 febbraio. Biglietti e programma fieragricola.it. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere la classifica. Molti mi hanno fatto notare che Randazzo, allora Antonino Randazzo è il pensionato di Terrasini attorno a cui girava tutta sta mega truffa di falsi invalidi, veri ladri, aggiungo io. Era il nome anche di uno dei personaggi di Johnny Stecchino, ma noi lo usiamo sul traffico a Palermo. Comunque andiamo avanti. È finito in manette lui, il suo più stretto collaboratore, a parte che è il collaboratore di un pensionato, aveva 56 anni, era già pensionato. Filippo Accardo, 49 anni, responsabile di un CAF a Terrasini, agli domiciliari. 33 denunciati a piedi libero. Dicevo anche, dico per fortuna perché quando sono falsi invalidi c'è sempre anche un falso certificato, medici generici e specialistici, componenti delle commissioni dell'ASP, impiegati dell'INPS e responsabili di CAF. Appunto, ognuno con un ruolo ben preciso, c'è il procacciatore di pazienti e l'addetto ai certificati. Ma se tutte queste energie, la Sicilia non solo, le venissero usate per fare attività legali, ma non sarebbe meglio? Comunque... hanno fatto emergere le indagini un modus operandi consolidato negli anni, come ha spiegato il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Hanno svelato anche le intercettazioni in un giro d'affari. Ce n'è una in cui l'organizzatore del giro, che adesso risponde di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per conseguimento di contributi pubblici, falsità ideologiche, traffico di influenze illecite, si vantava di averle, diceva, io ho le mani in pasta comunque, dovunque. Sempre Randazzo rassicurava un falso invalido, questo, quel medico è cosa nostra, come dicevano gli antichi, oddio Randazzo, anche i moderni. Un medico complice diceva invece di confezionare un falso certificato ben fatto, fallo bello pesante, queste carogne l'ultima volta l'hanno rigettato. E poi utilizzavano le scamotage in cui l'invalido attraverso il certificato non poteva spostarsi da casa perché costretto a letto e veniva evitata la visita della commissione collegiale. Faccio notare che a casa del Randazzo, che aveva anche lui una pensione di invalidità, a questo punto mi chiederei semplicemente di andare oltre con l'indagine e vedere anche la sua di pensione di invalidità, ottenuta nel 2008 per un incidente sul lavoro del 91, hanno beccato 62.000 euro in contanti. Cosa sono i risparmi di una vita, Randazzo? In contanti? Tutto in contanti? Ma la cosa che mi fa più incavolare, ce n'è un'altra. Allora, Randazzo a un certo momento dice: sono come una prostituta. Allora, Randazzo, per favore, non offendiamo. Non offendiamo. Non offendiamo le prostitute in primo luogo. Lei è un ladro. È una cosa diversa. Quindi, per favore, è come un ladro, sì, non offenda, diciamo, altre attività più o meno professionali anche, e che tra l'altro non sono perseguite dalla legge, lo è lo sfruttamento della prostituzione. Per favore, Randazzo, non offenda le prostitute, altrimenti la querelano e avrebbero anche ragione. Lei è un ladro e come tale spero verrà trattato. Al primo posto, allora potevamo mettere, andiamo al primo posto, non mettiamo, ce ne siamo occupati molto nei GR quando è uscita la notizia, l'indagine che ha portato a 151 aziende sequestrate, 194 indagati, 48 finiti in carcere, lo stato maggiore di due storiche cosche della mafia di Tortorici, il cuore del parco dei Nebrodi, quindi Bontempo Scavo e Batanesi, 46 domiciliari, un giro, insomma hanno fregato attraverso finti finanziamenti milionari per terreni fantasma di più di 10 milioni di fondi europei, con appunto anche qui se uno si occupasse di utilizzarli veramente. No, ma di questo è la notizia di cronaca e ce ne siamo già occupati. No, voglio andare al primo posto della classifica. And the winner is... The winner are, non the winner is, tutti i 3.000 occupanti, che sono di più perché 3.000 sono le abitazioni, tutti gli occupanti, più di 3.000, che occupano ancora abusivamente le abitazioni del Ministero della Difesa. Ora, c'è un modo di dire in Italia quando le cose non funzionano, mandate l'esercito. E il problema è che qua non puoi mandare l'esercito perché sta dentro la casa l'esercito. Allora, guardate, la cosa è pazzesca. Ci sono 16.500 immobili in questo paese che appartengono al Ministero della Difesa. Tra l'altro alcune sono anche in zona di pregio e che devono servire giustamente per i militari che sono trasferiti in altri, che hanno avuto trasferimenti e non hanno la propria abitazione. Sono un elemento anche di welfare nel mondo dei militari. La cosa pazzesca è che di questi 16.500 immobili, 5.000 non sono utilizzabili come attestato la Corte dei Conti perché abbandonati e non ci sono i soldi per la manutenzione. 5.000 immobili. 3.600 sono occupati, 3.600 sì, sono finiti al centro di inchiesta della Procura di Roma, nata dopo una relazione dello Stato Maggiore, e sono occupati abusivamente. Noi ci siamo occupati del caso dell'ex ministro Trenta, che ha fatto una figura, anche perché poi, nonostante non fosse più ministro, ancora lo occupava, poi sono usciti gli articoli della stampa, allora poi se n'è andata, ministro, con quella dichiarazione, cos'era, al Pigneto, non è una zona sicura? Ah, non è una zona sicura per lei che faceva ministro della difesa, si figuri per chi ci abita normalmente, al Pigneto. Comunque, non è solo l'ex ministra Elisabetta Trenta che aveva trasferito il contratto al marito, è un metodo usato da altri. Allora, sfruttano quasi tutti i ritardi nei controlli. e sono militari o vedove o figli di militari che, nonostante non abbiano alcun titolo, continuano a mantenere l'alloggio di servizio. Case sparse in tutta Italia, appunto oltre 3.600, e quindi c'è un censimento avviato dai sottosegretari del lavoro a quel tempo, Tofalo e Volpi, per fare un censimento dello Stato Maggiore e far emergere gravi abusi. Migliaia di persone risiedono in abitazioni senza avere requisiti e quindi levano l'abitazione a chi ne avrebbe requisiti, non è che sono abitazioni che altrimenti resterebbero sfitte. I canoni, ricordo, sono bassissimi. L'ex ministro Trenta per un appartamento nel centro di Roma con posto auto pagava di 180 metri quadri, pagava 141 euro mensili e un contributo di 173, fa 315 euro. Le altre quote non sono necessariamente così basse, ma sono comunque basse. Dovrebbero subito traslocare, o ripeto, o sono andati in pensione, o sono deceduti, o c'è la vedova, o c'è il figlio, insomma, non possono stare lì. E sfruttano appunto la... Molti si sono giustificati dicendo che di aver creduto che toccasse all'amministrazione effettuare la verifica. Poi ci sono i dipendenti civili trasferiti in altri ministeri o addirittura non più al servizio dello Stato che hanno sfruttato le carenze dei controlli. Anche attestazioni false per le cosiddette fasce protette, ed ecco perché si sono trasmessi gli atti alla magistratura. Non mandate l'esercito, mandate neanche la marina, che il ministero della difesa ha tutto, mandate qualcuno, ma mandate qualcuno a liberare queste 3.000 case occupate abusivamente, che sono patrimonio pubblico e sono patrimonio del ministero della difesa, e andrebbero date agli uomini della difesa, le nostre forze armate, che ne hanno legittimamente bisogno. E allora complimenti ai 3.000 e passa abusivi senza titolo delle case del nostro Ministero della Difesa. A chi mi scrive, no, non siamo riusciti a dare una notizia che era in classifica, la daremo la prossima settimana, riguarda, visto che parlavamo delle forze armate, in questo caso riguarda i vigili del fuoco, una notizia allucinante, ma me la tengo per la prossima settimana perché ho esaurito, diciamo, tutta la calma possibile. Michele Cesario, o Cesario, Cesario penso, numero uno e cofondatore di Come Home, buonasera. Buonasera dottor Barisoni, buonasera. Dopo il traffico lei ci spiega cos'è Come Home, una vaga idea ce l'ho, però forse mi sbaglio, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora Michele Cesario, numero uno e cofondatore di Come Home, cosa fa Come Home, quanti siete, chi vi ha aiutato, quanti anni ha, quanto fatturate, un fiorino. Eccoci qua, allora Come Home è una piattaforma digitale nata con l'obiettivo di far conoscere e incontrare le persone nella vita reale. Diciamo, la maggior parte degli eventi vengono appunto organizzati nel luogo più accogliente che esista al mondo, che è proprio la casa. Quindi di fatto è una piattaforma dove l'utente può proporsi come host, quindi organizzando il proprio format, definendo un numero di posti disponibili e una quota di contributo spese, o come partecipante, quindi vedere gli eventi in programma nella propria zona e accreditarsi direttamente online a quello che più gli interessa. Quindi, se ho ben capito, io posso trasformare o dare la disponibilità di casa mia per ospitare eventi organizzati da altri, ho capito bene? No, l'organizza lo stesso padrone di casa, ma può essere un'attività di qualsiasi tipo, da una serata a giochi a un aperitivo in lingua, un salotto teatrale, e l'host, diciamo il padrone di casa stesso, che decide il tipo di format che vuole organizzare, che spesso è proprio un'estensione della personalità di chi organizza. No, mi scusi, ma se io voglio organizzare, non so, una cosa a casa mia, Insomma, il meglio della classifica, cosa faccio? Vengo da voi, dico voglio organizzare una bicchierata, e cosa succede? Entrerà sul sito, farà la richiesta per diventare host, A quel punto la richiesta verrà approvata dal city manager della zona di riferimento e potrà organizzare il suo evento. Definisce appunto una descrizione, un'immagine dell'evento. Non ho capito, ma voi mi fornite anche gli ospiti che devono venire a casa mia? Non ho capito, no. Sì, sì, le persone sono sconosciuti che vanno a casa di altre persone con un interesse simile, in questo modo si conoscono e condividono una serata. Mamma mia, se lo sente il programma dopo questo. Allora, abbiamo sbagliato format. Vabbè, detto questo, voi come guadagnate, però mi scusi? Sostanzialmente noi tratteniamo una commissione, diciamo un po' al modello Airbnb, quindi sulla quota di contributo spese che richiede l'organizzatore noi tratteniamo un 15% e un 10% come costo del servizio che viene addebitato al partecipante. E dove siete attivi? Siamo partiti a Milano, adesso siamo su Milano, Roma, Torino e da poco a Barcellona, a breve apriremo anche Londra. Ma come dicono i ragazzi, gira la cosa? Sì. Sta girando, adesso abbiamo più di 100.000 utenti e oltre 400 eventi organizzati al mese. Le suggeriscono spin-off, come si dice in gergo, che in realtà mi gira un ascoltatore, l'app Go Home per cacciare le suocere. Non so se posso, oppure incastrate Go Home con Come Home, organizzate le suocere ad andare dove qualcun altro organizza una cosa per le suocere. Senta, chi vi ha aiutato e quanto fatturate, quanti siete? Siamo partiti con le nostre poche risorse economiche, ma soprattutto col nostro tempo, quindi dedicandoci a tempo pieno al progetto. Dopo una prima fase di validazione abbiamo fatto una prima piccola raccolta fondi, diciamo family and friends, persone che hanno preso per prima nel progetto, e successivamente l'anno passato abbiamo fatto una raccolta tramite crowdfunding, quindi dove la maggior parte degli utenti della community hanno investito diventando a tutti gli effetti soci del progetto, e un'altra parte con un gruppo di business angel, IAG. Ok, ne ha già parlato Nicoletti, sì, lo sappiamo, non facciamo sempre solo cose in esclusiva, spesso mandiamo in onda anche audio di altro genere. L'obiettivo di fatturato quest'anno, obiettivo, diciamo, non voglio sapere il dettaglio. L'obiettivo di quest'anno è arrivare al milione di fatturato con più di 17.000 eventi organizzati nell'anno. Complimenti. E siete in? Mi scusi, mi sono perso io. Siamo partiti in 4, oggi siamo 12. E di assunti come? Tempo pieno. Oh, complimenti. Adesso infatti io ho sorriso all'inizio, mi piaceva l'app per la suocera, però complimenti a lei, Michele Cesario, e ai 12, nella speranza che... State pensando di assumere altre persone? Se il progetto continuerà a crescere come speriamo, sicuramente nei prossimi mesi inseriremo nuove figure. Bocca al lupo a lei, 12 dipendenti di Come Home, e quindi a Michele Cesario. Oh. Torna malamore. Beh, del resto dopo la classifica. Dunque, per quello che riguarda il governo che ha presentato ai sindacati la proposta di riduzione del cuneo, che come abbiamo spiegato anche ieri riguarderà, allora, estende gli 80 euro di Renzi, chi già percepiva gli 80 euro, lo dico facile, avrà 20 euro in più, però poi c'è la fascia dai 26 ai 35 mila che risultava esclusa, sono 4 milioni in più di contribuenti, che avrà i benefici dai 35 ai 40 mila, il beneficio va presto a esaurirsi, arriverà a 100 euro, sarà di 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28 mila euro, dai 28 mila ai 35 mila 80 euro al mese, oltre 35 mila si va ad azzerare, tant'è che il calcolo è stato fatto fino a un massimo di 1.200 euro all'anno per i redditi più bassi, tra gli 8.200 e i 28.000 euro, e partirà da luglio perché il governo ha messo i soldi, i 3 miliardi invece di 6, e quindi l'ha fatto partire a luglio invece che a gennaio, almeno per dare un minimo di sostanza alla cosa. Gualtieri ha detto, il ministro Gualtieri, il taglio del cuneo è il primo passo, c'è un'ampia convergenza su questo. Il bonus mensile arriverà fino a 100 euro in busta paga, cioè sostanzialmente chi prende gli 80 più i 20 è chiaro che fa 100 euro, quindi fino a il massimo che puoi ottenere sono 100 euro, cioè 1.200 euro al mese. Positivo il commento dei sindacati, sentiamo in sequenza Landini, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, Anna Maria Furlan della CISL e Carmine Barbagallo della UIL. Credo che sia una giornata importante perché dopo tanti anni c'è un provvedimento che aumenta il salario netto di una parte dei lavoratori dipendenti. Questo è un primo risultato, naturalmente, stiamo parlando alla fine di qualcosa come 15-16 milioni di persone che vedrà aumentare il netto in busta paga. È un primo risultato perché naturalmente nessuno diventa ricco con questa situazione, perché i salari del nostro paese rimangono salari bassi che debbono aumentare, ma la strada è quella giusta. I 3 miliardi verranno distribuiti sulle buste paga dei lavoratori, coinvolgendo circa 16 milioni di lavoratori. Abbiamo tutta la platea degli attuali bonus degli 80 euro, quindi il bonus Renzi, si allarga sino a 35.000, quindi quelli del bonus Renzi arriveranno a 100.000. Oltre i 28.000 sino ai 35 avranno 80 euro, con poi un decalage sino a azzerarsi completamente ai 40.000. Riteniamo che siamo partiti col piede giusto. Noi avevamo dato un giudizio di insufficienza alla fine dell'anno perché le risorse sono quelle che sono. Però avere, diciamo, realizzato una prima riforma sul cuneo fiscale che porta gli 80 euro a 100 euro per i percettori come bonus e comincia a fare le detrazioni per altri, diciamo, milioni di lavoratori, questo è un fatto importantissimo perché è il primo passaggio per una riforma fiscale generale, dove abbiamo chiesto che i lavoratori e in particolare anche i pensionati debbano pagare in base al loro reddito e non avere un paese quasi incostituzionale che c'è chi paga molto di meno di quello che pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. Dunque, ho detto 1200 euro al mese, chiaramente è 1200 euro all'anno come massimo che puoi ottenere, perché è il risultato degli 80 euro di Renzi già presenti più i 20 per quella fascia che già li prende, fanno 100 euro al mese e quindi 1200 euro al massimo, ma è la fascia, ripeto, già coinvolta dagli 80 euro di Renzi, quindi quella che va dagli 8500 ai 26.000 euro. 8.200 fino a 28.000, quindi la fascia dei redditi più bassi, poi scende gradualmente fino a un minimo di 192 euro per i redditi da 39.000 euro e poi va a zero da 40.000 euro in poi. Allora, ultima notizia degli ultimi minuti: c'è un vertice in corso con i ministri Patuanelli e Provenzano, nonché l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, dove sono presenti, è un vertice per l'Ilva o l'ex Ilva. Non è arrivata ancora alcuna notizia, quindi non possiamo dirvi nulla, non è uscito nulla dal vertice che è in corso, quindi a me non resta che augurare a tutti voi un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà trascorrerlo lavorando. Ringraziare come sempre Barbara Bianchi per l'aiuto in redazione e in studio e darvi appuntamento a lunedì prossimo.